Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carla Oliva. Buongiorno, bentornati. Il progetto è quello di parlarvi di citazioni, di brodo, di facce, di lingue, dei sospetti e delle certezze del mio portinaio. Se ce la faremo, vedremo.